Siamo in collegamento telefonico con Andrea Oleandri dell'Associazione Antigone, associazione che stamane ha presentato il rapporto di metà anno sulla condizione delle carceri italiane in una conferenza stampa. Andrea, ben trovato. Buonasera, buonasera a voi. Noi ogni anno facciamo un rapporto che in qualche modo prova a fotografare quella che è la situazione che si vive nelle carceri italiane. E da qualche anno a questa parte abbiamo deciso di fare anche un rapporto che sia semestrale, insomma a metà anno, fare un po' il punto per evitare poi di dover arrivare alla fine dell'anno, insomma per tentare in qualche modo di offrire soluzioni per correggere la rotta nel corso dell'anno. Quello che abbiamo potuto fotografare anche attraverso l'attività dei nostri osservatori che ormai da 20 anni entrano in tutte le carceri italiane è una situazione di sovraffollamento che permane. Sicuramente il numero dei detenuti rispetto a quanto avvenuto nel 2016 e anche nei primi mesi del 2017, la crescita dei detenuti è un po' rallentata, ma continua inesorabilmente. Negli ultimi 5 mesi sono circa 700 in più le persone presenti nelle carceri italiane, con un tasso di affollamento che si aggira intorno al 116%. Quindi ci sono circa 8.000 detenuti in più rispetto ai posti regolamentari e questo sicuramente fa sì che la vita nelle carceri, che già non è insomma di per sé semplice, diventi ancora più complessa con tutta una serie di elementi negativi che poi subentrano, come anche atti di autolesionismo e i suicidi, che anche quest'anno sono molti, sono già stati 27. E nei primi 7 mesi dell'anno, e quindi un dato sicuramente preoccupante per l'Italia che tra le persone libere ha uno dei tassi di suicidi più bassi in Europa, invece per i detenuti questo tasso si alza di molto. La situazione rispetto alle misure alternative? Le misure alternative stanno sicuramente crescendo un po' negli ultimi anni rispetto a quanto avvenuto in passato, soprattutto la messa alla prova è sicuramente cresciuta, ma certo si potrebbe fare di più. Le misure alternative aiutano a prevenire la recidiva. Sicuramente chi passa l'ultima parte della propria pena in una misura alternativa, che sia un arresto domiciliare, una semilibertà, comunque con un rapporto all'esterno, è più facile che si reintegri in quella società, ricostruisce il legame magari con la famiglia che stando in carcere, per quanti colloqui sicuramente in piccola parte aiutino, però ricostruisce un rapporto con la famiglia, ricostruisce un rapporto con la società e quindi è più facile che non si torni a delinquere in qualche modo. E però ci sono circa 20.000 detenuti in Italia che hanno pene inferiori ai 3 anni e che quindi potrebbero accedere a delle misure alternative e invece non accedono per diversi motivi. Sicuramente uno di questi sono quelle politiche penalpopulistiche, insomma quelle pressioni sociali che arrivano da più parti affinché le persone stiano in carcere fino all'ultimo giorno per tutta la durata della loro pena, anche se questo è tendenzialmente contrario agli interessi anche di chi lo dice, perché come dicevamo le misure alternative abbassano la recidiva e quindi rendono la società più sicura per tutti. Oltre al sovraffollamento, quali altri dati macroscopici in questo primo semestre? Beh, innanzitutto non tanto in questo primo semestre perché poi è una tendenza, però c'è la questione degli stranieri perché ci sono costruite campagne elettorali e vittorie elettorali, ci si stanno costruendo anche questi primi mesi di governo da parte di alcuni e invece i dati ci dicono un'altra cosa, ci dicono che rispetto al 2008, quando gli stranieri in Italia erano 3 milioni, i detenuti stranieri erano 21.000, quindi c'era un tasso di detenzione che era all'incirca dello 0,7%. Oggi, quando gli stranieri residenti in Italia sono praticamente 6 milioni, i detenuti stranieri sono 19.000, quindi è un numero più basso in termini assoluti, ma soprattutto il tasso di detenzione è dimezzato, è lo 0,33%. Questo significa che anche se gli stranieri aumentano, non aumenta la criminalità straniera, non c'è nessuna emergenza che riguarda i cittadini stranieri che commettono reati, anzi i loro tassi di criminalità sono spesso molto più bassi anche di quelli degli italiani, per il quale il tasso di criminalità è dello 0,61%. Rispetto alle attività in carcere, ci sono esempi virtuosi? Gli esempi virtuosi purtroppo sono pochi, ci sono alcuni carceri, l'esempio è sicuramente Bollate, che da questo punto di vista da sempre, già da come era stato pensato, rappresenta un elemento virtuoso, quindi ci sono molte attività, molti contatti con l'esterno. Ci sono poi delle altre attività così un po' a macchia di leopardo in giro per l'Italia. Ma non tantissime, diciamo che tanto fa il rapporto anche con l'esterno, perché ad esempio anche i detenuti che lavorano, nella grande maggioranza dei casi, lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, facendo lavori tra l'altro che all'esterno non hanno nessuna spendibilità, c'è cioè lo scopino, lo scrivano, cose che fuori dal carcere non esistono. Invece è importante coinvolgere appunto attività esterne, realtà esterne al mondo del carcere, finché i detenuti poi possano continuare, una volta usciti, a lavorare in quel settore con quelle stesse cooperative e aziende. Andrea, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sul nostro sito, che è www.antigone.it, c'è la cartella stampa completa del rapporto, sono 18 pagine dove contenenti molti dati. Oltretutto, dal nostro sito sempre si può leggere il rapporto Un anno in carcere, che era il rapporto del 2000, sul 2017 che abbiamo presentato qualche mese fa, e poi di seguirci sulla nostra pagina Facebook che si trova cercando Associazione Antigone, o sul nostro Twitter che è Antigone Onlus. Benissimo, allora ricordiamo il rapporto di metà anno sulla condizione delle carceri italiane, presentato stamane a Roma in conferenza stampa dall'Associazione Antigone. Un saluto e un ringraziamento ad Andrea Oleandri. Andrea, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, grazie, un abbraccio a tutti voi.